Paolo dalla provincia di Trento. Pronto Paolo? Pronto, buongiorno. Ciao, buongiorno, come stai? Bene, bene. Tu registri tutto, leggo qua, dal 1987. Allora io mi sono comprato il primo computer nel 1982, ancora i primi Spectrum ZX, e praticamente da lì in poi ho sempre fatto, siccome programmo per... Cioè fai il programmatore? Ma per divertimento, così, perché mi piace. No, non ho capito, scusa, Paolo. Paolo, scusami, tu per divertimento programmi? Cioè io ho iniziato appunto nell'84-85 a programmare. No, no, l'ho capito, l'ho capito. Ma tu cosa fai di, ma cosa fai di mestiere tu, Paolo? Cioè mi dà soddisfazione programmare. Ma tu cosa fai di mestiere, Paolo? Io faccio il poliziotto. Ah, ok. E che cos'è che programmi? Scusami, mi sfugge, perdonami. Cioè praticamente, un programma, io faccio un programma, ad esempio, della contabilità. Ah, ok. Ecco, esempio contabilità, come so, registro i giri che faccio di corsa, in bicicletta. Sì, sì, ho capito. Cioè, qualsiasi cosa. Delle banche dati. Della famiglia, tutto, registro tutto in modo che io so, non so, esempio, quando sono andato a correre, mi hanno fatto la tabella e tutte le volte sono andato a correre, quanti minuti ho fatto, quanti... Cioè tu, Paolo, praticamente tu hai i numeri di tutto quello che accade intorno a te. Più o meno. Cioè, qualcosa può sfuggirmi, insomma. No, ma è tipo una patologia oppure è una cosa normale? Vuol dire... non voglio dire che tu sia malato, Paolo. Mi piace fare così, insomma. Ok, ok, fantastico. Quindi tu dal 1987 registri... Allora, dal 1987 io... facciamo un esempio. Fai. Ho codice 100 e alimentari. E alimentari non è che li divido. Cioè alimentari, so. 101 è abbigliamento. No, aspetta, aspetta, Paolo, scusami, sei magnifico. Tu dai dei codici anche alle categorie. Sì, codice 101 per esempio è l'abbigliamento. Ok. Codice 102 sono scarpe, così. Cioè, e avanti, so, il cane, il gatto. Il cane che cos'è? Il cane che cos'è? 100? 142. Ma tu te li ricordi tutti a memoria, Paolo? Dal 1987 in poi... Sono passati, mi sembra, 23 anni, è anche facile ricordarsi. Ti credo. Ma quante categorie ci sono? Parte dal 100 fino al? Beh, dopo arrivo fino al 700, però non è che sono seguenti. No, no, è chiaro. Ma vacanze, ad esempio, che codice ha? 110. 110. Ma ad esempio, quest'anno, dal mese di gennaio, tu sai anche dire quanto hai speso in 110 vacanze? Cioè io, praticamente, io so... qualsiasi, so, mi dice, dimmi quanto hai speso l'abbigliamento dal 1987 ogni familiare. Sì. Io sto tranquillamente, mi dice tutto. Tu, certo, vai a trovare. Io devo dare il tuo numero a Deborah Rosciani di Salvadanaio, perché secondo me tu potresti veramente diventare un ospite fisso del programma. Senti. No, un'altra cosa, so, per esempio, ho anche la ricerca per parole chiave. Per esempio, io mangio il gelato, non so. Perché ogni tanto per lavoro vado, certo, a San Benito del Tronto, ma certo, ho a San Benito del Tronto, posso dire, dimmi le spese che ho fatto a San Benito del Tronto. E tu lo sai. E lui mi dice, da quando ho iniziato, quante spese ho fatto, per esempio, a San Benito del Tronto. Paolo, potrebbe essere a... Grazie mille, grazie mille. Io credevo non fosse possibile, e invece è possibile. Paolo, grazie mille davvero, buona giornata. Prego.